costui riconosci un tuo custode. Chi sei? Volgi la fronte. Io son uno che teme nelle sorti seconde, ma nelle avverse ho in un coraggio espeme. Ebbe regina, il guerriero chi è? Non lo ravvisi al favellar superbo, al volto audace, all'orgoglio del cor. Egli è farnace. E nella reggia osasti entra furtivo, e contro me t'armasti. Ruginatelo, fini. Morirò ma pugnando. Venditi, ci disarmi e si incateni. Non è farnace, facil trionfo, da solo.